Con Michele Munafò, curatore del rapporto nazionale consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, ben trovato. Grazie, buonasera. Presentato alla stampa l'altro giorno, raccontiamo un po' di cosa si tratta. Noi abbiamo analizzato come è cambiato il territorio nell'ultimo anno. In particolare nel 2021 abbiamo visto che il consumo di suolo, cioè la copertura con edifici, infrastrutture e altre coperture artificiali del suolo, è cresciuta di quasi 70 km quadrati in un anno. Tra l'altro il valore più alto degli ultimi 10 anni, quindi un processo che si è invertito, che invece di ridursi e tendere allo zero, cosa che dovremmo per rispondere agli obiettivi europei e globali sull'azzeramento del consumo di suolo, invece tende a crescere con una velocità veramente elevata. Stiamo parlando di più di 2 metri quadrati ogni secondo del nostro territorio agricolo, del nostro suolo naturale, che vengono sigillati, coperti da edifici e altro, e in questo modo di fatto perdiamo questa risorsa così fragile, così importante che è il suolo. Facciamo un po' un quadro nazionale di quello che sta accadendo? Al di là, ecco, di questa situazione molto preoccupante, si mostra che sono sempre le regioni del nord, fondamentalmente quelle dove si consuma più suolo, in particolare la Lombardia, dove quest'anno si sono consumati quasi 900 ettari in più soltanto in quel territorio regionale. Il Veneto, l'Emilia-Romagna, il Piemonte sono le altre regioni dove si è costruito di più. Sono valori molto alti, anche perché poi c'è da dire che il consumo di suolo si concentra e si intensifica proprio nelle aree di pianura, vicino alle principali città metropolitane. Lì si concentra molto consumo di suolo. Anche all'interno delle nostre città, perché poi invece questo è un processo che veramente continua, ormai non ci stupisce più, insomma, sono alcuni anni che lo leggiamo. Ma nelle nostre città il suolo naturale, le aree verdi vengono continuamente sigillate, artificializzate per la realizzazione di nuovi manufatti, di nuove costruzioni. È impressionante, devo dire, anche il dato sulle coste. Questo riguarda meno le regioni del nord, ma soprattutto la fascia adriatica, che vedono un'intensificazione anche lì delle costruzioni, anche nella fascia più importante, più fragile, che è quella entro i 300 metri dal mare. A questo si somma anche un aumento esponenziale degli incendi dovuti al surriscaldamento e siccità. Sì, gli incendi poi, lo sappiamo bene, hanno quasi sempre la mano dell'uomo e quindi chiaramente la siccità, la temperatura elevata non fa altro che alimentare e agevolare questa situazione. E in generale poi questi incendi hanno degli impatti fortissimi anche sul suolo, oltre che sulla vegetazione. Questo è un fenomeno preoccupante che porta ad aumentare il degrado complessivo, perché il degrado del suolo, del territorio, non è dovuto soltanto al consumo di suolo, che è sicuramente tra i tanti, forse quello più impattante, anche più irreversibile, ma sono tante le forme di impatto e di degrado del suolo, gli incendi, ma anche una serie di attività agricole che tendono a far perdere produttività al suolo, attività intensiva, salinizzazione, erosione, frammentazione, insomma, sono tantissime le forme di degrado. Ormai si stima che quasi un quinto del territorio nazionale sia stato soggetto a fenomeni di intenso degrado nell'ultimo periodo. Anche questo è un qualcosa che non possiamo decisamente permetterci, visto che di suolo ormai ce n'è poco e questo suolo, nel momento in cui lo perdiamo, poi di fatto lo perdiamo per sempre o quasi, perché la rigenerazione del suolo è un processo lentissimo, ci vogliono migliaia di anni per riformare uno spessore di pochi centimetri di suolo. Ecco, proprio in questo senso volevo chiederti che ne è poi dei territori che hanno subito incendi? C'è qualche opera di recupero in tal senso? La legge è molto chiara, lì ad esempio è vietato costruire per 10 anni, vanno in qualche modo lasciati al recupero naturale della vegetazione e nonostante questo nel nostro monitoraggio annuale noi ci accorgiamo che non sempre queste situazioni sono rispettate e anche quest'anno come altri anni abbiamo individuato alcune edificazioni, alcune artificializzazioni in aree incendiate nel corso degli anni. Esistono dei casi virtuosi per quanto riguarda invece un andamento negativo per quest'anno? Noi quest'anno abbiamo provato a individuare delle situazioni virtuoso, quantomeno meno negative delle altre. Questo anche perché pensiamo che possa essere di stimolo poi alle amministrazioni, soprattutto a livello comunale e locale, che possano in qualche modo individuare delle azioni di recupero, di ripristino. Abbiamo individuato in particolare nell'ambito di tre categorie di comuni, cioè quelli grandi sopra i 50.000 abitanti, quelli medi e quelli piccoli sotto i 10.000, tre comuni che negli ultimi anni hanno consumato meno suolo degli altri e che non hanno avuto però allo stesso tempo perdite importanti di popolazione o situazioni di degrado di altro tipo. In particolare tra i comuni grandi, il comune di Como è quello che ha consumato meno suolo, anche se comunque ha consumato una certa quantità di suolo non trascurabile, ma tra i comuni grandi è stato praticamente impossibile trovare un comune a consumo zero. Mentre invece tra i medi e piccoli abbiamo trovato due situazioni, il comune di Impruneta, provincia di Firenze, Marano della Policella in Veneto, dove oltre ad aver consumato pochissimo suolo, vicino allo zero, sono state anche ripristinate delle superfici. In questo caso parliamo di realtà di superfici che erano precedentemente destinate o ad aree estrattive, o nel caso poi di Marano, in particolare a un'area estrattiva anche legata a un cementificio che negli ultimi anni è stato parzialmente recuperato per costituire un parco della biodiversità. Sono piccoli esempi, sicuramente più simbolici, che non sono in grado ovviamente di incidere sui grandi numeri a livello nazionale, ma che speriamo possano essere di esempio anche per altre amministrazioni. Vengono sbandierate spesso operazioni relative a nuovi alberi piantati per compensazione. Sono realtà significative? Quasi mai, nel senso che spesso si può cadere nella trappola del greenwashing, ovvero si tratta di piantare alcuni alberi per compensare poi magari da altre parti edificazioni elevate o artificializzazioni importanti. Purtroppo anche sull'onda della rigenerazione urbana, che dovrebbe essere un po' l'altra faccia della medaglia, no? Fermiamo il consumo di suolo e invece miglioriamo l'esistente, lavoriamo sugli edifici, sulle nostre città per riqualificarli, rigenerarli. Purtroppo spesso sotto questo titolo invece avvengono semplicemente opere di nuove cubature, nuove costruzioni anche all'interno delle aree urbane e la compensazione non serve quasi mai a nulla dal punto di vista ambientale e la stessa Commissione europea la tiene all'interno di una gerarchia che ha adottato a novembre scorso all'ultimo posto, quindi in questa gerarchia sul consumo di suolo. La Commissione europea ci dice che innanzitutto noi dobbiamo evitare il consumo di suolo, dopodiché al secondo posto dobbiamo riutilizzare l'esistente. Quindi nel caso in cui queste due situazioni non possano essere assicurate, ma proprio come ultima ipotesi, dobbiamo eventualmente utilizzare aree già degradate e in ultima istanza proprio procedere con interventi compensativi che hanno spesso scarsa efficacia. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Tutto presente sul sito Ispra, www.ispraambiente.it, è possibile scaricare il rapporto, accedere alla cartografia e scaricarsi anche tutti i dati completi del nostro rapporto, regione per regione, comune per comune su tutta Italia. Il rapporto nazionale consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Un saluto e un ringraziamento al curatore Michele Munafò. A presto! A presto e grazie ancora dell'invito. Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Sette paste per sette fratelli, la guerra a tavola, di e con Ilaria Patamia. E poi letture tratte da Noi ragazzi della libertà, i partigiani raccontano, libro a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi. Il 25 luglio 1943 è una data importantissima nella nostra storia, perché rappresenta una sorta di spartiacque. Dopo il 25 luglio niente sarà più lo stesso. Ed è una data che porta in sé un elemento tragico, se andiamo a vedere, perché il 25 luglio viene salutato con grande gioia in tutto il territorio nazionale. Si faranno festeggiamenti, si improvviseranno comizi, si faranno manifestazioni spontanee. Le persone pensano che quella sia finalmente l'inizio della fine. E la storia purtroppo ci restituirà la sensazione che quella è stata proprio la fine dell'inizio, e da lì cominciava veramente quello che poi è ciò che ricordiamo di quel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Come sta l'Italia all'epoca? Prima di raccontarvi la storia per cui siamo tutti quanti qui, la storia della pasta asciuttata antifascista, io vorrei darvi un po' uno spaccato di quello che accadrà fra il 25 luglio e la fine del conflitto. Come sta l'Italia all'epoca? L'Italia ha fame, ha incredibilmente fame, è straziata da 3 anni di guerra, è decimata nella sua popolazione, ha i palazzi bombardati, le famiglie sinistrate che dormono dove capita, gli sfollati. È un momento molto duro per la popolazione italiana, e il 25 luglio viene visto come il momento in cui tutto ciò finirà finalmente, in cui tutto ciò avrà finalmente fine. Non sarà così. E dopo il 25 luglio la gente comincerà a chiedere la pace, comincerà a chiedere la fine di tutto questo, e la diretta conseguenza sarà l'8 settembre, cioè l'armistizio. Dall'8 settembre cambierà tutto in tutta Italia, cambierà tutto qui a Roma. Vorrei raccontarvi un po' di Roma prima di qualunque altra cosa. Con l'8 settembre Roma viene dichiarata città aperta. Per chi non lo sapesse, città aperta è un accordo militare tra due parti contendenti su un particolare territorio che si impegnano a infliggere quanto meno danni possibili alla popolazione che vi abita e alle sue strutture. E quindi si impegnano queste parti contendenti a non difendere e a non rivendicare il territorio, il che è vero come una moneta da 3 euro. Per quale motivo? Perché i tedeschi la vogliono Roma. Roma è perfetta per i tedeschi, Roma è l'esatta retrovia della linea del fronte che si trova ad Anzio e a Cassino, più a sud. E Roma è la città perfetta per fungere da retrovia. Per quale motivo? Beh, perché è già attrezzata, peraltro, ha già i suoi depositi, le sue strutture, le sue strade, le sue ferrovie, perché è geograficamente nella giusta prossimità, e quindi vogliono usarla come retrovia. Retrovia, in gergo militare, significa mandare lì i soldati a ristorarsi fra un combattimento e l'altro. In gergo civile significa mandare i soldati lì a mignotte, a ubriacarsi e a fare scempio della città. Mo sarà che i romani sono poco ospitali, però sto ruolo di retrovia non è che lo vogliono fare tanto. Di conseguenza cosa fanno i romani? Subito, dalla primissima ora, dopo l'8 settembre, a Porta San Paolo, scenderanno al fianco dell'esercito regolare per sbarrare il passo ai tedeschi, con 3 giorni di combattimenti durissimi. In questi combattimenti parteciperanno, come ho detto, l'esercito regolare, a cui si affiancheranno i civili, quelli che hanno fatto il militare, ad esempio, quelli che hanno combattuto nella primo conflitto mondiale, che insomma un fucile in mano lo sanno tenere, ma pure quelli che il militare non l'hanno fatto mai, che non hanno mai sparato in vita loro e che stanno lì con le mani tremanti sperando che uno sparasse da soli su un ginocchio, che farebbe ride tanto, ma non è questa l'occasione d'uso. E accorrono le ragazze che si improvvisano da subito staffette facendo collegamento fra un punto e l'altro delle linee improvvisate del fronte. E ci saranno le donne. Ora, questo può sembrare un tratto dovuto, no? Nella nostra società civile non è esattamente così, perché le donne all'epoca avevano un valore civile e politico pari a zero. Le donne non potevano votare, figuriamoci farsi votare. E non partecipavano attivamente alla vita cittadina. Ebbene, queste donne, sulla cui schiena si è consumata la campagna demografica, che hanno passato gli ultimi 20 anni della loro vita con un bambino in braccio, uno per mano e uno nella pancia, non è che possono scendere giù a combattere e lasciare sti ragazzini. Quindi che cosa fanno? Aspettano il cessate il fuoco. E ad ogni cessate il fuoco scenderanno giù per le trombe delle scale e prenderanno i feriti e porteranno dentro casa per curarli, improvvisandosi infermiere, mettendo a bollire l'acqua, strappando lenzuola. E quelle che non soccorreranno i feriti scenderanno giù invece con delle grosse pentole di cicoria raccolte lungo le vie consolari, che hanno fatto bollire, che hanno ripassato le più fortunate chi ce l'aveva, con un po' d'olio, un po' d'erba, quello che può essere la cicoria ripassata, e insomma lo portavano giù come sostegno a queste persone. Tutti hanno partecipato, tutto, ma il tratto più commovente è proprio questo di queste donne, perché ripeto, le donne all'epoca non votavano. Eppure loro erano lì, sono state prima partigiane e poi cittadine. Quelle donne lì, il diritto di voto, se lo sono conquistato sul campo. E tutta la città, in qualche modo, decide di opporsi ai tedeschi, perché noi conosciamo la resistenza romana con dei nomi precisi, no? Carla Capponi, Mario Fiorentini, Sasa Bentivegna, Lucia Ottobrini, sono mille i nomi che vi potrei fare, giusto? Però c'è un'altra resistenza, di cui non conosciamo i nomi se non per seconda, terza mano. Per esempio, se io vi dico Duilio Grigioni, chi è? Duilio Grigioni era un portiere. Lui veniva colto da una forma particolarissima di amnesia alla vista di un ragazzo che partecipava ad un GAP. Appena lo vedeva, si dimenticava di chiudere la porta della carbonaia. E i ragazzi potevano dormire in un posto coperto. Oppure si dimenticava di chiudere la porta del terrazzo, dando ai partigiani la possibilità di avere una via di fuga sui tetti di Roma. Ma non è l'unico che sarà colto da questa forma di amnesia, sarà un'epidemia per tutta quanta la città. Avremo dei camerieri che si dimenticheranno di aver già portato da mangiare a un certo tavolo e porteranno una seconda porzione. Certo, sono patate, eh? A Roma si mangia quello. Però saziano, e in qualche modo è un conforto pensare che se fosse anche l'unico pasto della giornata perlomeno ha riempito. Oppure la stessa forma di amnesia colpirà l'oste di quella particolare locanda, il quale si dimenticherà di portare il conto a quel particolare tavolo, mentre al tavolo del tedesco porterà il conto dopo avergli fatto avere ciò che aveva richiesto in porzione striminzita, col conto maggiorato e condito con l'ingrediente segreto del suo sputo. In qualche modo tutta quanta la città viene colta da questa forma amnesica che gli permette di fare un'altra forma di resistenza, una resistenza civile. Ma io ce l'avrei il coraggio. Io che sono una di quelle che per rumore dello scroll sarei capace di sparare? No, probabilmente no. E allora non potrei essere una che partecipa? Sì, c'è un'altra strada. C'è quest'altra strada che è stato il gradino su cui ha appoggiato il piede l'azione poi militare degli altri che ci contavano su queste persone. E a livelli di amnesia si andava avanti anche a livello topografico, per esempio. Non c'era ovviamente il tonton all'epoca, quindi quando il tedesco arrivava con la camionetta e chiedeva una strada di Roma, i romani con un rapido sguardo fra di loro, d'intesa, per vedere se c'era qualche delatore, perché non è che sono tutti santi, no, però insomma la città partecipò abbastanza attivamente, messi tutti d'accordo, alla domanda di una strada che si trovava verso, che vi posso dire, Viale Marconi, ecco, la collocavano, che vi posso dire, a Tivoli, lunghezza se gli diceva Fortuna, però comunque non sapevano nemmeno più come era fatta la propria città. Oppure c'erano dei casi di amnesia così grave di donne che si dimenticavano quanti e quali fossero le persone che abitavano a casa loro e improvvisamente si trovavano a vivere con un sacco di gente in più. Oh, bravi, gente per bene, non si vedeva, non si sentiva, i vicini proprio non ci hanno mai avuto niente da ridire, però insomma avevano questa capacità di fungere da sabbie mobili e accogliere ciò che la città avrebbe espulso adesso che c'erano i tedeschi. E questa capacità dei romani, queste amnesie così fulminanti, transitorie, che sparivano senza lasciar traccia, ma che erano infettive, che Covid scansati, andò a colpire tantissima gente, perché non è solo Alzheimer il tedesco che ci fa perdere la testa, ma è qualunque tedesco negli anni 40 ci faceva perdere la testa e ci rendeva così incapace di ricordare qualunque cosa. Al punto tale che le epidemie non si fermeranno lì. All'isola Tiberina scoppierà un'altra epidemia, il morbo K. Il morbo K è un morbo terribile. Il morbo K è un morbo che ti uccide in pochi istanti. Quando i tedeschi vanno a fare l'ispezione all'interno dell'ospedale all'isola Tiberina, troveranno un medico che uscirà fuori bardato, come adesso, da apicoltore proprio, con la maschera, i guanti, i calzari, la tuta, e gli dirà che no, lì non si può entrare, perché c'è un morbo grave, gravissimo, un morbo che ti attacca in poche ore e ti divora. Un morbo che se ti prende non ti lascia scampo. E i tedeschi ringraziano tanto, segnano tutto sul loro foglietto e se ne vanno via. E dichiarano che lì c'è un'epidemia di morbo K. E il medico aveva detto la verità in realtà, perché il morbo K è la sigla del morbo Kappler. E i pazienti là dietro erano tutti ebrei. Effettivamente, se li avesse visti, li avrebbe annientati in pochissime ore. Questo è quello che fa la città. A Porta San Paolo, dove ci sono stati combattimenti, c'è un giovane regista, De Sica, che sta girando un film. Questo film si chiama La Porta del Cielo, un film che praticamente ha avuto un successo pari a zero, che parla di un treno di pellegrini. E questo treno di pellegrini lui lo sta riprendendo perché gli è stato commissionato dal Vaticano. Ora, all'epoca si vuole spostare la città del cinema da Roma, da Cinecittà, a Venezia, dove c'è la Coppa Volpi. E quindi De Sica viene richiamato su. E lui dice che sì, ci andrà, però ormai a questo film iniziato, commissionato dal Vaticano, non lo può lasciare. E quindi dirà che raggiungerà la città del cinema su a Venezia non appena avrà finito le riprese del film. Per girare questo film ci mette 9 mesi. Manco Ben-Hur è durato così tanto. E questo film, che parla di un treno di pellegrini, quindi non succede niente in questo film per tutto quanto il tempo, vedrà arruolate nel personale artistico e nelle maestranze renitenti alla leva, dissidenti politici, ebrei, che lui metterà lì al posto degli attori che avrebbero dovuto esserci, delle maestranze che avrebbero dovuto esserci, e passerà questi 9 mesi a insegnare a queste persone uno straccio di mestiere, perché se fosse passato un controllo, ma che figura avrebbero fatto? Si vedeva che non sapevano neanche dove mettere la bobina. De Sica questa cosa la racconta ridendo, perché queste persone venivano alloggiate al convitto dei preti lì a Porta San Paolo. E lui lo racconta così, cioè queste persone accettarono l'invito e stavano insieme e mangiavano e bevevano e s'accoppiavano. Era una gioia vedere questo inno alla vita, con buona pace dei preti che stavano lì poverini, signore perdonali, è per una buona causa, e cercavano di sopportare questa vista. Questo è quello che fa Roma mentre aspetta l'arrivo degli americani. Perché gli americani sono sbarcati a Anzio e basta, sono sbarcati, stanno lì, fermi, punto. Per molto tempo sono solo sbarcati, perché si può dire tutto dei tedeschi, però la guerra la sanno fare. E quindi gli americani non riescono ad avanzare. Tanto è vero che i romani, ormai impratichiti in queste tecniche, arriveranno a scrivere con una certa sfrontatezza sul muro di Trastevere: americani, resistete, veniamo a liberarvi noi. Lanciatissimi in questa loro capacità di resistere così tanto. Tutta la città parteciperà e tutta la città a vari livelli condividerà quello che avrà. Dopo l'8 settembre vengono sospese le tessere annonarie per gli ebrei e le altre lavorano a mezzo servizio, quindi una grossa parte di quello che ti serve te lo devi comprare alla borsa nera e costa troppo, costa veramente troppo. Le persone hanno niente, ma quel niente lo dividono. E Roma è una città che riusa, che ricicla, che ridestina, che ricolloca, che ha sprecato nulla. Uno dei problemi che ebbero Bentivegna e gli altri nell'attentato di Via Rasella fu quello di trovare abbastanza spazzatura per coprire il tritolo nel carretto di spazzino. Cioè, l'immondizia è sempre stato un problema per Roma, però all'epoca era un problema al contrario, cioè qualunque cosa veniva riutilizzata all'infinito. Il maglione te lo passavano di generazioni, te lo davano che era un vestitino, te lo toglievano che era un crop top, e andava di padre in figlio, tre gradi di parentela, no? Al cugino, dello zio, del cognato, partiva di lana, arrivava a filo di Scozia, tra, se smagliava ci facevano i calzini. Non si buttava nulla. ogni cosa veniva riutilizzata, ogni cosa che spuntava da terra, che fosse verde, veniva mangiata, senza senso critico, se lo potevi masticare lo potevi mangiare. Non si trovava un piccione per Roma, mio nonno mi raccontava, quando ero piccola, quando vedeva i piccioni, faceva, ma non se ne sarebbe mai andato con quell'aria impettito quello là all'epoca, perché cioè stavamo tutti là con la fionda, pimma, io dai balconi ero un grande a prenderli. Era questa Roma all'epoca, era una città che aveva fame, ma era una città che non rinunciava e che si aiutava. Pensiamo al quadrato, al nido di vespe, che risucchiava persone e le faceva sparire in modo che nessuno ci poteva mettere le mani. Pensiamo a queste zone che vi ho raccontato. E pensiamo a quel 25 luglio, cosa deve essere stato. A casa mia il 25 luglio è stata una data importante, quello del 43. Perché mio padre compiva 3 anni, noi siamo gente seria e quando scegliamo un giorno per nascere lo prendiamo proprio fatto bene. E mio padre, il suo compleanno è il 25 luglio. E a me, se ci penso oggi, no? A mio padre come un bambino di guerra un pochino mi viene da commuovermi, perché comunque l'ho sempre conosciuto come un gigante, come un uomo forte. E invece era stato un bambino di guerra, un bambino che compiva 3 anni quel giorno lì. E quando noi pensiamo a un bambino oggi, no? Noi pensiamo a una cosa tonda, paffuta, rosa, una cosa che ti sfianca le domande, che la sera gli racconti una favola molto lunga in modo che lo annienti, si addormenta e finalmente dormi pure te, insomma questo è un bambino di 3 anni per noi oggi. Ecco, un bambino di 3 anni in tempo di guerra non è paffuto per niente, i bambini di guerra sono tantissimi e non sono paffuti, non sono paffuti manco se li metti tutti insieme, se li metti uno accanto all'altro fai un pettine, non fai un bambino paffuto, sono magri, sono pallidi, sono quelli a cui non racconti la favola. Perché la sera scappi di rifugio e lì non ti viene proprio di raccontare favole. Se noi pensiamo ai video che stiamo vedendo oggi, di queste guerre, e non parlo del conflitto di cui si parla oggi, no, parlo di tutte le guerre, parlo del papà siriano che dice pum, come se fosse un tuono nel momento in cui scoppia la bomba, parlo di tutti i video di tutte le guerre che abbiamo visto in questi giorni, vi accorgerete che raccontare le favole non sono gli adulti e i bambini. Un adulto che racconta una favola a un bambino esiste solo in tempo di pace o a posteriori come ha fatto Benigni, ma in tempo di guerra non ti viene, non credi alla realtà, figuriamoci se puoi credere ad una favola, non ce la faresti. Sono i bambini che raccontano le favole in tempo di guerra, che le raccontano ai fratelli più piccoli, che se le raccontano perché ne hanno bisogno di bellezza, perché loro lo sanno, e per questo si aggrappano alle favole, che ci sono i draghi da sconfiggere. Ma sanno pure che se c'è una cosa che fa paura ai draghi è la bellezza. Infatti i draghi cercano sempre di nasconderla agli occhi del mondo, perché appena appare lei, loro scompaiono. Perché quando tu hai sconfitto un drago te ne puoi dimenticare, ma una volta che hai visto la bellezza tu la cercherai sempre. E i bambini si aggrappano a questa bellezza, perché? Perché sono strutturati per sopravvivere. E allora mi viene da pensare una cosa, come sarebbe la favola che racconterei a quel bambino di 3 anni che la sera viene portato nel rifugio con la coperta? Beh, per esempio comincerei col classico c'era una volta. Allora, caro Giuseppe, c'erano una volta 7 fratelli, che non erano principi, no? Anzi, a dirla tutta erano proprio contadini quelli, cioè proprio dei principi non c'erano niente. E non avevano quindi quei nomi altisonanti dei principi. Si sa, le regine fanno un figlio per garantire la linea genealogica, per basta, hanno finito, figli dei contadini, figli ne fanno 4, quindi la principessa si può permettere di mettergli 4-5 nomi al figlio, no? Maria, Vittorio, Emanuele, Hernando, Juan Fernando, Velasco per gli amici Mimmo. Invece i contadini metteranno a questi figli un nome solo, un nome semplice, duro, come la terra che lavorano, da cui strappano quello che mettono nel piatto. E questi 7 fratelli si chiamavano con un nome solo: Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio e Ettore. Questi 7 fratelli avevano come unico grande potere magico il bastone alla cui estremità era attaccato una parte di ferro, la loro zappa, con cui riuscivano a strappare alla terra quello che poi avrebbero diviso con gli altri. Perché i fratelli cervi avevano dalla loro l'amore per la bellezza, come vi dicevo prima. E loro ci credevano al progresso, loro ci credevano che ce l'avrebbero fatta. E questi fratelli, cominciarono a fare qualcosa che nessun altro aveva fatto prima. Si misero a studiare manuali per far fruttare di più la terra. Volevano raggiungere come idea del progresso la possibilità di far rendere di più quella terra che lavoravano. E cominciarono a studiare vari manuali di agraria per imparare a livellare la terra, per creare le giuste pendenze, per i canali dell'acqua, di modo che non si creassero buche e buchette. Ma ovviamente il mezzardo da cui lavoravano aveva detto di no, si era sempre fatto in quel modo. Che bisogno c'era di mettersi a cambiare tutto quanto? E allora cosa fanno loro? Se ne vanno e si prendono un terreno da Valle Re, dove abitavano, i Campi Rossi, vicino Campeggine, dove vanno a lavorarlo. Era un terreno che sembrava che il padre Eterno ci aveva giocato con paletta e secchiello da ragazzino. E aveva lasciato tutto così com'era, certe buche che faceva veramente impressione. E infatti l'avevano pagato pochissimo, perché era un terreno che non rendeva fondamentalmente. E i contadini vicini, ridiridi, si misero a vedere che cosa stavano facendo questi pazzi, cosa pensavano mai di tirare fuori da quel terreno, che costava poco proprio perché non fruttava. Ebbene, i cervi si misero lì, comprarono il toro per tirare i vagoni, i binari per farcelo andare, cominciarono, spostavano la terra, la smontavano, livellavano, creavano nuove cose di scolo e alla fine riuscirono nell'impresa. E allora i contadini intorno non ridevano più. I contadini intorno cominciarono a dire, ma voi siete ingegneri, ma voi dovete prendere la laurea. E Aldo rispondeva, ma che laurea è laurea? Cioè, ma che ci serve la laurea? Basta leggere i libri, quello che vi interessa sta sui libri. E allora gli venne un'altra idea. Si misero a creare biblioteche a cui cominciò ad afferire tutta la popolazione, cominciarono a parlare ed è così che cominciò l'arruolamento e la circolazione di idee. E in questi vari rapporti cominciano a conoscere persone, la Compagnia dei Sarzi, per esempio, che arrivava da Reggio e incontrò i fratelli Cervi e cominciò a portargli nuove idee, un'idea di progresso, un'idea di rivoluzione. Era una compagnia che era in contatto con le cellule gattiste e i Cervi capirono che era ora di fare uno scatto e cominciarono a partecipare attivamente e prestarono la loro opera nel Soccorso Rosso e prestarono la loro mano nelle azioni di sabotaggio e cominciarono a nascondere dentro casa, ormai la loro casa, come diceva Alcide Cervi, era un'internazionale, tutti quelli, i soldati sbandati dopo l'8 settembre di tutte le nazionalità erano nascosti a casa dei Cervi, arrivavano distrutti, malconci, laceri ed uscivano che erano rifocillati, rivestiti, le donne che gli cucivano le giubbe e loro che gli portavano i frutti della terra. Cominciarono piano piano a farsi notare, tant'è vero che il 25 novembre del 43 si sentì un rumore, arrivarono dei carri armati con 50 persone per sette fratelli e presero i Cervi, al grido di Cervi arrendetevi, loro scesero giù insieme al padre, vennero presi con loro Quarto Camurri che era un altro dissidente politico e degli stranieri. Ora, gli stranieri, essendo militari e avendo avuto l'onore delle armi, venivano passati ai tedeschi e godevano paradossalmente della Convenzione di Ginevra, sopravvissero. I Cervi vennero dati ai fascisti insieme a Quarto Camurri e in carcere vennero condannati a morte. Perché in quel periodo c'era stata l'uccisione di un podestà e per rappresaglia, insieme a Quarto Camurri, vennero fucilati. Al padre Alcide, che era in carcere con loro, i ragazzi non dissero che stavano andando a morire. Lo sapevano però, lo sapevano perché poco prima di andare via, Ettore, il più piccolo dei fratelli Cervi, aveva dato il suo maglione. Era una cosa che facevano i condannati a morte per fucilazione. Aveva dato il suo maglione ad un uomo dicendogli tienilo per tuo figlio. E Alcide, il padre, gli dice, ma portatelo, vai al processo, perché così gli avevano detto che sarebbero andati a un processo. Vai al processo, a Parma fa freddo, portalo che ti serve. E Ettore aveva risposto che no, che era sicuro che non gli sarebbe servito. I ragazzi vanno alla fucilazione e di loro non si saprà nulla. Si dirà che è stata fatta una rappresaglia, ma non si dirà chi è stato ucciso. Si verrà a saperlo molto tempo dopo. Il padre per molto tempo cercherà i figli convinto che siano stati portati a Parma in carcere. E allora tu, Giuseppe, mi chiederai che storia mi stai raccontando. Questa è una storia da raccontare dentro un rifugio. Questa è una storia che mi tira su di morale. Questa è una storia che contrasta le bombe. Questa è una storia in cui si vince. Eh beh no, se mi fermo qui effettivamente no, questa è una storia in cui si perde, è una storia in cui si piange. Ma c'è l'ultima cosa che non ti ho detto. Poco prima di morire, Gelindo si gira verso il protone e gli dice una cosa. Voi ci uccidete, ma i fratelli cervi non muoiono. E se oggi, 79 anni dopo, stiamo mangiando una pasta asciutta, forse ci aveva ragione lui. E avevo ragione pure io, perché la bellezza non muore. Accanto a me c'era Davide, a cui volevo molto bene. Io mi chiamo Davide, mi disse, ma tutti devono chiamarmi Davide. Quella mattina Davide non venne a scuola. Avevano comunicato a tutti gli ebrei che non si sarebbero dovuti presentare in aula. Mi alzai di scatto e protestai. Cosa vuol dire, chiesi? Davide non ha fatto nulla di male a nessuno. Perché non si devono presentare più? Non è giusto. Avevo 12 anni. Appena tornato a casa dissi a mio padre, io in una scuola così non ci voglio più andare. Mio nonno era un socialista un po' anarchico, mi iscrisse a una scuola privata e quasi contemporaneamente cominciai a lavorare. Mi continuava a frullare in testa una cosa, anzi due, che David, non veniva chiamato David ma Davide, e che a me non piacciono le ingiustizie. Sarà per questo che l'8 settembre, quando si sparse la voce dell'armistizio, a me e ai miei amici parve naturale comportarmi così come facemmo. Quell'8 settembre, tutti insieme, decidemmo di andare a prendere un cavallo e un barroccio e ci precipitammo nelle basi militari. Caricammo bombe a mano, mitragliatrici, divise e portammo tutte a casa di un mio amico partigiano. E di così ogni cosa finì alla brigata Stella Rossa in montagna. La mia resistenza, la nostra resistenza, cominciò proprio quel giorno. Quello che accade dopo mi sembrò quasi naturale. Nel novembre del 1943, quando avevo 17 anni, entrai nella 7ª GAP, una delle brigate partigiane più attive. Mi diedero come nome di battaglia il Biondino, in ricordo di un amico partigiano morto. GAP stava per Gruppo di Azione Partigiana. Eravamo piccoli nuclei partigiani, formati sia da uomini sia da donne, ben addestrati, e avevamo il compito di effettuare azioni di guerriglia urbana. Preferivamo l'azione militare alla politica, ma a muoverci era un'idea, la libertà. Noi volevamo la libertà. Qualcuno ha detto che eravamo dei terroristi. Cazzate, enormi cazzate. Eravamo in guerra, certo, ma non avevamo mai torto un capello a un civile. È capitato di uccidere, è vero, ma questo mi pesa ancora oggi. Non abbiamo mai torturato nessuno, noi, perché invece ho ancora bene davanti agli occhi l'orrore commesso dai tedeschi e dai fascisti. Se catturati eravamo addestrati per resistere almeno 2 giorni, in modo da dare tempo ai nostri compagni di cambiare le basi, non farsi trovare dai fascisti e dai tedeschi. Ma mi chiedevo, sarei mai stato capace di resistere 2 giorni a una tortura? È per questo che tenevo sempre in tasca un'arma, pronto ad ammazzarmi un attimo prima di essere catturato. In quegli anni abbiamo visto amici e nemici morire, abbiamo vendicato e pianto, abbiamo anche ballato, la sera insieme con le staffette e la musica che veniva fuori dai grammofoni. Se però devo indicare un centro, il cuore di quel pezzo di vita, ecco, quel centro è stato senza dubbio la battaglia di Porta Lame. Eravamo nel settembre del 1944. Noi avevamo avuto l'informazione che l'ospedale maggiore di Bologna era stato raso al suolo, ma i sotterranei erano ancora perfettamente agibili. Prendere Bologna era importante. Restammo lì, asserragliati per 7 settimane. Purtroppo la voce dell'imminente arrivo dei rinforzi alleati si rivelò falsa. Fin quando, per puro caso, un plotone di tedeschi incontrò per strada alcuni partigiani che si erano rifugiati in una palazzina accanto al palazzo dell'ospedale dove eravamo noi. I tedeschi attaccarono la palazzina e noi dai sotterranei udivamo gli spari. Avevamo previsto che poteva succedere e accadde. tutto andò come doveva. I tedeschi, i fascisti continuarono l'attacco alla palazzina e alle 5 del pomeriggio fecero arrivare un carro armato Tigre, ma ci avevano sottovalutato. All'interno della palazzina non c'era più nessuno. Fu a quel punto che toccò a noi. Uscimmo dai sotterranei dell'ospedale e in 200 diavolacci circondammo il palazzo preso dai fascisti. Non ci aspettavano, fummo velocissimi e non ebbero scampo. Fu proprio a Porta Lame che le brigate nere, la polizia d'assalto, i tedeschi subirono le perdite maggiori, tanto che quella battaglia entrò nella storia della resistenza. Il 21 aprile 1945, il giorno della liberazione di Bologna, eravamo nascosti dentro un cimitero. Per tutto il resto della mia vita, in qualche maniera sono rimasto lì, insieme con i miei amici, che intanto non c'erano più, gli amici di Pontelungo, della settima GAP. Non sono più con me, ma in fondo non li ho mai abbandonati. Così come non è mai andata via un'altra sensazione che continua a farmi bollire il sangue. Quando ancora oggi sento qualcuno che attacca gli ebrei, io non ci vedo più. Io c'ero, io ho visto, io ho sentito e pensavo che quella cattiveria non fosse più possibile. Ma mi sbagliavo, ma io non mi arrendo. Era il 1940, avevo 17 anni e mi accaddero quattro cose. La maturità è andata benissimo, il primo bacio è andato malissimo, l'ammissione al provino all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma. Era il mio sogno, ma io vivevo a Milano e i miei genitori mi visero dietro. La Cicci, perché anche se mi chiamo Maria Lucia per tutti sono Cicci, da sola a Roma. E poi successe che incontrai Giorgio. Giorgio era di Bergamo, aveva un anno più di me e quando lo incontrai capì che per me sarebbe stato importante e lo stesso fu per lui. Veniva da una famiglia importante, suo padre Guido Paglia era stato un militare fascista assai noto. La storia del padre però non impedì a Giorgio di fare una scelta completamente opposta. Il motivo? Credo fosse perché non sopportava le imposizioni, proprio come me, che alle elementari rifiutai il ruolo da capo manipolo delle piccole italiane offertomi dalla maestra. Sarei quella che sta fuori e dice un due alle compagne, spiegò. Neanche per sogno, risposi, le mie compagne marciano come vogliono. Mi scrisse una nota sul diario, la maestra dice che sono una bestia, chiedendomi di riportarla firmata da mio padre e la faccenda si chiuse lì. Noi giovani frequentavamo la casa del conte Luchino dal Verme, che sarebbe poi diventato capo partigiano nel paese. Ci trovavamo con ragazzi di un ambiente che non aveva certo problemi, ma che aveva deciso che del fascismo ne aveva avuto abbastanza. Giorgio dovette partire per la leva obbligatoria nell'esercito, interruppe gli studi e quando arrivò l'8 settembre combatté contro i tedeschi che si avvicinavano alla capitale e poi tornò a Milano. Dopo l'armistizio i ragazzi ancora in divisa rischiavano di finire nei campi di lavoro in Germania. Così io e Giorgio decidemmo di andare alla stazione centrale. Avevamo borse grandi piene di vestiti e scarpe. Quando Giorgio vedeva un ragazzo in divisa con l'aria smarrita, lo prendeva, lo portava in una toilette, lo vestiva, gli faceva buttare l'uniforme, gli dava un po' di soldi, un documento e lo faceva scappare. Nel 1944, di fronte alla scelta di arruolarsi nella Repubblica Sociale o disertare, decise di partire e di andare in montagna. Raggiunse i partigiani che stavano nella Bergamasca e entrò nella 53esima Brigata con il nome di Battaglia Tenente Giorgio. Intanto io, rimasta a Milano, cercavo di darmi da fare. Un amico di mio padre mi aveva dato un piccolo ufficio nella sede della Banca d'Italia, perché figurasse che lavoravo come segretaria per loro e invece lavoravo per i partigiani. Mantenevo le comunicazioni, trasmettevo indirizzi. Con Giorgio ogni tanto riuscivamo a sentirci, telefonate brevi. L'ultima volta che lo vidi fu nel giugno del 44. Ero nel mio ufficetto della Banca d'Italia e ricevetti una telefonata, era lui. Esci subito. Ma non posso, dare troppo nell'occhio. Esci subito. Abbassai la cornetta e uscii. Mi prese sotto braccio e andammo a piedi fino a San Babila. Ci fermammo davanti al Cinemastra e mi spinse dentro. Ma mi fai uscire così per andare al cinema? Gli chiesi. Mi fece segno di stare zitta. Ci fermammo prima di entrare nella sala di proiezione dietro la tenda. Aprì una borsa, ne tirò fuori una rivoltella enorme e se la mise nella tasca dell'impermeabile. «Senti Cicci», mi disse, «io sono stato tradito. C'è una persona che sa quello che faccio. Tu devi seguirmi ora dal lato sinistro di Corso Venezia. Io camminerò con un uomo sul lato destro. Se vedi che capita qualcosa di strano, una discussione, macchine che si fermano, porta di corsa questo pacchetto all'Hotel Continental e consegnala alla persona di cui ti ho scritto qui il nome». Avevo il cuore in gola. Lo accompagnai con lo sguardo e cercai di fare quello che mi aveva detto. Lo seguì dall'altra parte della strada mentre camminava accanto a un tipo con la barbetta che lo aveva raggiunto e con il quale parlava animatamente. Sembrava che tutto andasse per il verso giusto, ma a un certo punto arrivarono i tedeschi. Scambiarono qualche parola con loro, ma poi li lasciarono andare. «Cos'è successo?» «Niente», rispose. «Gli ho puntato la pistola nel fianco e gli ho detto che se avesse fatto un cenno ai quei tedeschi lo avrei ucciso». Mi accompagnò a casa. Ci salutammo e non ci vedemmo mai più. Giorgio purtroppo aveva capito tutto. Qualcuno lo aveva tradito. I fascisti, i reparti della Legione Tagliamento, il 17 novembre 1944 salirono alla Malga Lunga, nella conca del Farno, sopra Bergamo, e presero Giorgio e i suoi compagni. Erano 8. Combatterono a lungo, soltanto quando terminarono tutte le munizioni e con i due compagni che erano stati colpiti, Giorgio accettò la resa, a patto però che i feriti venissero curati. Lo ingannarono, i feriti furono ammazzati e il resto della squadra, compreso Giorgio, fu portato all'Overe, un comune lì vicino. Giorgio fu giustiziato il 21 novembre. Lui e i suoi compagni avevano subito un processo sommario ed erano stati condannati a morte. Tutti, tranne Giorgio. Era il figlio di Guido Paglia e i fascisti, appena se ne erano resi conto, gli avevano concesso la salvezza in onore del padre. «O tutti o nessuno, io e i miei amici non li abbandono», rispose Giorgio e chiese di essere fucilato per primo. Aveva 22 anni. Prima di morire aveva scritto 2 lettere, una per la mamma e una per me. «Carissima Cicci, stasera mi fucileranno. Non piangere troppo per me, perché saprò morire da soldato. In tutti questi mesi di montagna ho sognato tanto la vita che avremmo condotto insieme, per sempre e per tutta la vita. Il destino non lo ha voluto, si vede che era giusto così. Tuo Giorgio». Da 70 anni, ogni 21 novembre, faccio portare nella cappella di Giorgio un cesto di ciclamini bianchi. Era il nostro fiore, il primo che mi aveva regalato. Quale altra scelta avrebbe mai potuto compiere un ragazzo come me? Avevo solo 9 anni nel 1936, quando una squadraccia fascista fece irruzione a casa nostra, all'Aquila, per punire papà che si era lasciato sfuggire in pubblico un'imprecazione contro il duce. Mamma chiuse in una stanza me e mio fratello, ma sentimmo che lo massacravano di botte prima di trascinarlo via. L'indomani, all'alba, lo rilasciarono in condizioni spaventose. Gli avevano infilato a forza un imbuto in bocca e lo avevano costretto a tracannare dell'olio lubrificante e bruciato. Morì poco tempo dopo per via delle piaghe nello stomaco. Mancato il papà, fu costretto a lasciare gli studi e nel 1943 ci trasferimmo a Bologna. Fu un dentista il primo a impiegarmi come staffetta. Avevo solo 14 anni quando, catturato una prima volta dopo l'attacco al comando tedesco di Via Dante, riuscii a evadere e presi la via della montagna. Mamma cercò di dissuadermi, ma ero molto determinato e sarebbe stato imprudente restare a Bologna. Dopo che mi aveva raccontato i particolari della morte di mio padre, si era instaurato un rapporto alla pari, come se fossi stato un fratello più che un figlio. Molti mi chiedono com'è che i partigiani accettassero di reclutare un ragazzo ancora adolescente. Ma ero grande e grosso, sviluppato fisicamente e non solo mentalmente. Dimostravo molto di più della mia età. Nel marzo del 44 un boscaiolo mi accompagnò sull'Appennino bolognese, dove incontrai 5 montanari che non avevano risposto alla cartolina di richiamo per arruolarsi nell'esercito e vagavano per i boschi. Per prima cosa mi chiesero di scegliere un nome di battaglia, anche se non capivo bene a cosa servisse. Usavano nomi tipo fulmine, tempesta, che nomi facevano? e siccome uno veniva dalla Toscana, decisi di chiamarmi Arno. Ben presto incontrai Mario Ricci, per tutti il comandante Armando. Nei momenti di pausa, quando i più riposavano, facevo parte di quella ventina che si riuniva per discutere le ragioni della nostra lotta. Fu così che mi formai una coscienza politica. A noi ragazzi non si stancava di ripetere: dopo la guerra dovrete essere gli artefici della ricostruzione dell'Italia. La nostra divisione Modena combatteva sui colli tra Modena e Reggio Emilia, insieme ad alle altre brigate. Riuscimmo a prendere il controllo di una vasta area, 1200 km quadrati, dove fascisti e tedeschi non potevano più mettere piede. Un vero e proprio territorio liberato, un esperimento di democrazia che in seguito prenderà il nome di Repubblica Partigiana di Montefiorino. Ero incaricato di presidiarne uno degli ingressi, con formazioni di 30 o 50 uomini. Francamente non ricordo momenti di felicità in quei mesi terribili, ma dico con sincerità che non sentivo neanche la paura. Forse era fatalismo. La morte l'avevo messa in conto, anche quella volta in cui fui catturato dai tedeschi e portato sull'orlo di un burrone. Mi avevano picchiato, mi tenevano per le ascelle, ero sicuro che stavo per essere fucilato. La legge era quella, l'ho presi come un fatto scontato. Invece il maresciallo decise di farmi deportare in Germania e ai confini con il Veneto riuscì a scappare. Fu così che il seguito della resistenza l'ho combattuto in città, a Bologna. Neanche il giorno della liberazione fu diverso dagli altri. Avevamo il mandato di consegnare Bologna in ordine e funzionante. Dopo la guerra ricominciarono tempi durissimi. Un anno di ospedale perché il mio fisico era logorato. Mi iscrissi al Partito Comunista. Riuscii a farmi assumere come operaio in una fabbrica metalmeccanica, dove le condizioni lavorative però erano insopportabili, proprio come sotto il fascismo. L'ambiente era malsano, nessuna sicurezza, solo in pochi erano dotati della maschera obbligatoria. Io cercavo di far capire ai colleghi che la resistenza ci aveva dato dei diritti, che dovevamo protestare. Il risultato fu che mi licenziarono in tronco. Sulla lettera c'era scritto, chiaro e tondo, che Ermenegildo Bugni era un bolscevico, nemico del padrone e pericoloso per tutte le democrazie occidentali. Pian piano mi sono rifatto una vita. Ho continuato a militare nel partito e a testimoniare con l'ANPI cosa vuol dire essere partigiano. Per tutti, a Bologna, sono rimasto Arno. La mia resistenza iniziò a 8 anni e la prima volta che mi ribellai fu per aiutare Deborah, la mia compagna di banco ebrea. Era il 1938. Avevano appena promulgato le leggi razziali. Quella mattina a scuola la nostra insegnante non c'era e arrivò una supplente. Si presentò con la divisa fascista e per prima cosa ci chiese il saluto al duce. Dovevamo gridare «Per Benito Mussolini! Eia eia! Alala!» E noi, figli di antifascisti, rispondemmo invece «Per Benito Mussolini, che lo possino ammazzare!» La maestra, per fortuna, non se ne accorse. Poi iniziò a fare l'appello. Quando toccò Deborah Zaffati, l'insegnante disse «Tu, rimani in piedi!» Poi la prese, la strattonò, la portò alla finestra e le legò le lunghe trecce alla corda con cui si tirava la tenda. Legò Deborah con i suoi stessi capelli. Noi bambini guardammo la scena attoniti, ma decidemmo di reagire. Prima circondammo la maestra spintonandola, poi prendemmo la cattedra, la spostammo sotto la finestra dove era legata Deborah e le sciogliemmo i capelli, liberandola. E la cosa non finì lì, mi venne un'idea, il primo atto politico. Dissi ai miei compagni di scuola di far girare la voce, appuntamento alle 6 del pomeriggio a casa mia. L'esempio, non lo nego, veniva dalla mia famiglia, dove erano tutti antifascisti. A casa mia, con la scusa di comunioni e battesimi, si facevano riunioni per capire come e con cosa era possibile combattere il fascismo. Così pensai di raccontare quel che era successo a scuola in un volantino da distribuire a più persone possibili. Quando arrivavano i bambini all'appuntamento chiedevamo «Quanti siete in classe? 37? 38? Eccovi i volantini!» Loro il giorno dopo li distribuirono. A quei tempi le famiglie erano molto numerose, dove vivevo io c'erano le fabbriche, quindi molti operai antifascisti. Così quei volantini fecero il giro del quartiere, addirittura della città. In aula non mi videro più. Ero stata espulsa, come si diceva allora, da tutte le scuole del regno. Così la licenza elementare l'ho presa a 16 anni, il diploma di ragioneria a 30 e a 45 anni mi sono laureata in biologia. ma tutto questo a Deborah non servì. Fu catturata il 16 ottobre 1943, durante il rastrellamento degli ebrei nel ghetto di Roma. Lei, il padre Guglielmo, la madre Emma e i fratellini Giuseppe, Italia e Marco condivisero il destino di altre 1024 persone. Salirono sul convoglio numero 2, arrivarono ad Auschwitz il 23 ottobre e non sopravvissero alla Shoah. Quello che feci dopo, lo feci anche per lei. Divenni staffetta per le Brigate Garibaldi. Il mio nome di battaglia era Luce. Io andavo a prendere i chiodi a 3 o 4 punte per i sabotaggi da un partigiano di Trastevere. Il suo nome di battaglia era Giorgio. Una mattina una signora mi bloccò a pochi isolati da casa sua. Fermati, mi disse, lo stanno portando via i tedeschi. Non lo vidi mai più. Lo uccisero alle fosse Ardeatine, dove i nazisti sterminarono 335 civili per rappresaglia dopo un'azione partigiana che aveva provocato la morte di 33 soldati tedeschi. Non avevo mai conosciuto nemmeno il suo vero nome. Solo dopo seppi che si chiamava Enrico Ferola. Anche mia sorella faceva la staffetta all'epoca. Aveva 15 anni ed era molto coraggiosa. Del resto nostra madre non era da meno. Tingeva le lenzuola matrimoniali di rosso e il 1° maggio le appendeva come fossero bandiere davanti alle stazioni ferroviarie. Abbiamo avuto paura, ma siamo state anche molto felici. Un giorno, per esempio, organizzammo una grande manifestazione in piazza San Pietro. C'erano uomini, ragazzi, ma soprattutto donne, per la maggior parte casalinghe. Erano arrivate lì dopo che c'erano state riunioni clandestine, caseggiato per caseggiato. Chiedevamo pace, urlavamo, mandate via i tedeschi da Roma, andatevene via, Roma città aperta. Lungo tutto il perimetro erano schierati i nazisti, con il mitra spianato, ci guardavano puntandoci i fucili e noi a urlare, via, via, pace, pane, vogliamo i viveri, basta con i bombardamenti. Restammo lì per ore, nessuno sparò. Ricordo come una delle cose più belle della mia vita, Via della Conciliazione, piena di gente. Noi non eravamo armati, è vero, ma eravamo convinti. E la convinzione sa essere l'arma più feroce. Volevamo la Costituzione, volevamo la solidarietà, la giustizia e la libertà. Per questo oggi sono arrabbiata con quei ragazzi che pensano che tutto sia dovuto, tutto sia scontato. Glielo dico sempre, bisogna combattere, discutere, confrontarsi. Io non ho mai smesso di farlo. È arrivata la liberazione. Avevamo la Repubblica, poi la Costituzione, ma secondo me c'era ancora bisogno di lottare. C'è un episodio che voglio raccontare che la dice lunga sullo spirito che avevo in quegli anni. Era più o meno il 1950. Lavoravo come segretaria del Pioniere, un giornale per ragazzi appena nato a Roma. Una mattina non andai al lavoro perché avevo altro da fare. Con i compagni avevamo deciso di scrivere alcuni messaggi sui muri della città, in particolare sul Lungotevere. L'incaricata ero io. L'accordo era che, al loro fischio, saremmo dovuti scappare. Pace e libertà, scrissi, senza riuscire a mettere l'accento sulla A. Sentii la sirena che segnalava l'arrivo della polizia. Non fuggii, mi fermai per completare la parola e tracciare quell'accento. Mi arrestarono. Telefonai a mia madre e le dissi, chiama il direttore del giornale, digli che il partito mi manda a Napoli per la campagna elettorale e starò via 1 settimana, 10 giorni. Domani non potrò andare al lavoro. Il direttore capì subito. A Napoli non c'era nessuna campagna elettorale. Appena tornata in redazione mi chiese, ma che hai combinato? È successo che mi hanno arrestata e mi hanno trattenuta 12 giorni, gli risposi. Però è successo pure che l'articolo 21 della Costituzione dice che uno può esprimere liberamente la propria opinione con scritte, manifesti. Io ho fatto quello. Ho scritto pace e libertà. Ma non sono scappata al fischio dei compagni. Non potevo. Non avevo messo l'accento sulla A. Lui sorrise e scrisse una poesia sulla mia storia. A Torino in bicicletta. Dove corro con tanta fretta? Corro a portare una lettera espresso arrivata proprio adesso. Oh fattorino, corri diritto, nell'espresso cosa c'è scritto? C'è scritto, mamma, non stare in pena se non rientro per cena. In prigione mi hanno messo perché sui muri ho scritto col gesso, con un pezzetto di gesso in mano. Quel che scrivevo era buon italiano. Ho scritto sui muri della città, vogliamo pace e libertà. Ma di una cosa mi rammento, che sulla A non ho messo l'accento. Perciò ti prego, per favore, vatti a correggere quell'errore. E un'altra volta, mammina mia, studierò meglio l'ortografia. Il mio direttore era un grande scrittore di storie per ragazzi, un giornalista, un educatore, un poeta. Si chiamava Gianni Rodari. Partigiani è il contrario di neutrali. Cioè vuol dire persone che scelgono la parte da cui bisogna stare, anziché cavarsela stando in mezzo. Ma chi gliel'ha fatto fare? Ma se provassimo a metterci nei loro panni? La resistenza è durata più o meno 20 mesi, dall'armistizio con gli alleati dell'8 settembre del 43 fino al 25 aprile del 45, quando tutte le città del nord si liberarono dei nazisti e dei fascisti. La guerra non l'hanno vinta solo i partigiani, ma in quell'esperienza di ribellione si sono formati gli uomini e le donne che hanno creato la nostra democrazia. A loro siamo debitori di quel pilastro fondamentale che è la Costituzione approvata nel 1947. La resistenza in montagna o nelle città, dove era ancora più pericolosa, l'hanno fatta anche tanti ragazzi e ragazze, tredicenne e a volte anche più piccoli. E se oggi noi possiamo metterci nei loro panni, ma per fortuna noi siamo in panni molto, ma molto più comodi, lo dobbiamo anche a loro. Come ci ha detto un vecchio signore che la resistenza l'ha fatta, la libertà non è un regalo, va conquistata. Meglio allenarsi fin da piccoli a riconoscere chi vuole portarcela via, così da non dover mai vestire panni che qualcun altro ha scelto per noi. Ricordiamocelo. Lo spettacolo Sette paste per sette fratelli, la guerra a tavola, di e con Ilaria Patamia. E poi letture tratte da Noi ragazzi della libertà, i partigiani raccontano, libro a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi. Con Ilaria Patamia, autrice e attrice dello spettacolo Sette paste per sette fratelli, la guerra a tavola. Bentrovata! Grazie, bentrovato a te. Come lo descriveresti questo lavoro? È ancora un work in progress, nel senso che è un po' un ibrido tra il lavoro teatrale vero e proprio e il talking teatrale, quindi c'è questo gioco di rimpallo col pubblico in cui attraverso l'annuire degli spettatori oppure quello che può essere il tavolare dei loro occhi mi rendo un po' conto di quali sono i piani di interesse delle persone che ho davanti. Quindi è uno spettacolo che si adatta moltissimo alle persone che ho davanti, è fatto di tante piccole storie che ho cucito insieme in una cornice un po' più grande e che vengono ampliate, ridotte o sostituite a seconda appunto del tipo di risposta che mi trovo davanti. Com'era nata l'idea? Io vengo da un tipo di teatro completamente diverso, da un tipo di teatro fisico, da un tipo di teatro sperimentale, e improvvisamente mi sono resa conto che c'è un tipo di teatro sperimentale ormai che è un po' autoreferenziale. Non voglio offendere nessuno, per carità, perché è un tipo di teatro che io amo, vengo da lì. Questa mia critica non vuole essere denigratoria, ma vuole essere un'analisi. E mi sono resa conto che in qualche modo il teatro sperimentale in certi momenti, non in tutti naturalmente, tradisce un po' il patto con il pubblico, nel senso che se tu dici a una persona vieni che ti racconto una storia, poi a fine giornata gliela deve aver raccontata. Invece tante volte ci sono suggestioni, immagini, evocazioni, ma non c'è poi una vera e propria narrazione. Sono un po' voluta tornare indietro proprio sul gioco della narrazione con le persone. È un po' diverso il mio lavoro da quello che è di grandi, inavvicinabili per me, narratori, affabulatori come Paolini, Celestini, per carità, non è quel tipo di lavoro. Io lavoro un po' più sul piano emotivo, sulle storie che mi colpiscono emotivamente, più che sul filone del ragionamento. Però nasce dall'esigenza un po' di unire il racconto all'altra mia grande passione, che è la storia, quindi il racconto della storia così come è andato. Tutto quello che è comprovato storicamente, non ci sono elementi di fantasia. I sette fratelli sono i fratelli Cervi. Su quali materiali hai lavorato? Sono partita da un vecchio lavoro che avevo fatto anni prima, tratto proprio dal libro di Alcide Cervi, I miei sette figli, da cui avevo tratto uno spettacolo, e poi l'ho un po' mescolato con varie interviste alla famiglia Cervi naturalmente, ma anche ad altri personaggi del quadrante dove loro vissero, cercando di costruire proprio filologicamente un percorso corretto, perché poi c'è sempre il solito dubbio storia e memoria, no? Quindi la storia è fatta di fatti. La memoria è come questi fatti sono vissuti, e a volte nell'intreccio si perde un po' la fedeltà alla storia oppure si distorce la storia. Quindi volevo non discostarmi dalla storia, ma mantenere peraltro, però, dato che come ho detto prima faccio un lavoro sull'emotività, mantenere viva la memoria, che è un modo appunto più emotivo di vivere la storia, e forse è il modo che secondo me è anche più evolutivo, nel senso che l'emozione è ciò che veicola meglio l'apprendimento. Noi impariamo quando soffriamo, cosa che quando una cosa ci lascia indifferente tendiamo a lasciar cadere, no? Finora dove lo hai portato? Questo lavoro è nato in luce proprio l'anno scorso in occasione della pasta asciuttata antifascista. Quest'anno mi è stato richiesto, ma l'ho rielaborato completamente, quindi l'ho completamente stravolto rispetto al precedente, anche perché, ripeto, un po' per sua natura è uno spettacolo che si lascia stravolgere, un po' perché non credo che abbia ancora raggiunto la sua forma definitiva. Mi è capitato di portarlo in piccoli frammenti in altri interventi che ho fatto, ad esempio nelle visite guidate che facciamo con l'AMPI, l'AMPIA, al Forte Bravetta, perché adesso dopo l'accordo raggiunto tra queste associazioni e il Comune di Roma è possibile tramite prenotazione partecipare a visite guidate al Forte, che è un sito completamente conservato. Ovviamente la visita guidata c'è l'introduzione storica e tutto quanto, e ogni tanto quando partecipo anch'io porto frammenti di lavori con intento proprio di divulgazione storica, però in una chiave un po' più morbida rispetto alla lezione che farebbe uno storico, naturalmente. Su cosa stai lavorando e dove ti vedremo prossimamente? Io adesso sto lavorando a mio spettacolo su Settimia Spizzichino, che si chiama Keran Bersole, e sto adesso vedendo di portarlo in un teatro di Roma, sono in accordo con il Teatro delle Muse, ed è un lavoro che ho dedicato alla figura di Settimia, che è l'unica ebrea deportata il 16 ottobre del 43, l'unica donna che ha fatto ritorno fra i 16 che sono riusciti a tornare. È un personaggio che per me ha un impatto emotivo fortissimo, perché ho avuto il privilegio di conoscerla, di vederla dal vivo da ragazza con la scuola, ed è stata una figura che mi ha segnato profondamente, anche perché ero veramente colpita da questa donna che aveva questo viso da donna anziana, vissuta, e questi occhi da bambino smarriti, questo viso così in contraddizione, che mi è rimasto scolpito dentro, e alla fine gli ho voluto dedicare un lavoro in cui ci sono due personaggi, lei che racconta la sua storia mentre ritorna a casa, e l'altro personaggio è quello della sorella Gentile, che è l'unica scampata alla deportazione, proprio perché Settimia, mentendo, aveva dichiarato che si trattasse della cameriera ebrea e non di sua sorella, che attende il ritorno di quelli andati via, e questa attesa si conclude nel momento del rientro di Settimia, si chiude proprio lì. Lo spettacolo Sette Paste per Sette Fratelli, La Guerra a Tavola, un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Ilaria Patamia. A presto! Grazie a voi, a presto, grazie. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con la compagnia La Casa d'Argilla per presentare il progetto multidisciplinare IF, Invasioni dal Futuro, New Era, al Teatro Indie a Roma dal 1 al 7 agosto 2022. Ben trovati. Ben trovato. Ciao. Salve. Ciao. Ciao. Raccontiamolo per chi non lo conoscesse. IF, Invasioni dal Futuro, è un progetto per la città che ragiona intorno alle scritture, ai temi della fantascienza. In buona sostanza, più semplicemente, da 9 anni adattiamo i più diversi autori, i grandi padri della fantascienza, Bradbury, Dick, Ballard, Solaris di Lem, che è un altro romanzo che abbiamo molto amato, e in una forma che abbiamo chiamato un melologo multimediale. Che cosa vuol dire? Che non sono semplici letture con tutta la dignità delle letture, ma letteralmente il mondo sonoro costruisce le pareti degli spettacoli e si costruisce attraverso una riflessione che dialoga con il tipo di scrittura che noi scegliamo, di volta in volta diversa. Quindi chiaramente un Bradbury determina un lavoro sonoro di un tipo, o per esempio Uccelli della Du Maurier, che facciamo quest'anno, ne determina tutto un altro. E all'interno di questo mondo sonoro, in interplay e in performance, perché insomma il termine tecnico è quello, gli attori dialogano, riscrivono l'andamento dell'adattamento assieme alla musica. Come sarà articolata questa edizione? Ci saranno appunto i due spettacoli dal vivo, quindi Uccelli di Du Maurier, che è la novità di quest'anno, e l'area X di Van der Meer, che è una trilogia. Ed è la prima volta che noi facciamo un desiderio lungamente covato, e lo abbiamo presentato l'anno scorso e quest'anno avrà la sua forma definitiva, diciamo una teatralità seriale. Van der Meer ha scritto tre magnifici libri e grazie all'adattamento di Roberto Scarpetti, che ha magnificamente adattato anche Uccelli, siamo finalmente giunti a una serialità anche con una misura, diciamo, sostenibile per il pubblico, perché durano un'ora e un quarto. E anche aggiungo la serialità perché abbiamo cominciato a pensarla, a osare farla proprio durante la pandemia. Perché in qualche modo per noi è anche un elemento di riflessione, vedere se il pubblico ha voglia di tornare una seconda volta a teatro, non a vedere la stessa cosa ma a vederne la continuazione, come una rieducazione per noi e per il pubblico, al tempo lungo da passare a teatro. E intanto questi sono i due spettacoli. Poi, come da tradizione iffiana, ci sono riflessioni, appunto, come dicevi tu, multidisciplinari. Quindi c'è una conferenza filosofico-scientifica che riflette a partire dai temi quest'anno, soprattutto che porta la novità Uccelli. Poi c'è tutta la nostra radio IF che riflette sul tema cosa sarà il mondo senza noi, quindi anche lì prendo spunto sia da Uccelli che dall'area X. Poi l'installazione multimediale sulla facciata, una collaborazione con una libreria, quindi il pubblico potrà anche avere a disposizione libri per allargare pensieri e conoscenze, e due laboratori, uno che porta a fondo la riflessione che facciamo da anni sulle scritture e sugli adattamenti, che è Piccola Bottega di Roberto Scarpetti, dove Roberto dà la possibilità a giovani drammaturghi di sviluppare un testo che hanno nel cassetto da anni, che è una cosa molto bella, infatti è un laboratorio fatto tramite call, piccolo, cioè per 5 partecipanti, proprio perché Roberto lavorerà con ognuno di loro all'approfondimento del testo. Il secondo è Horror Store di Fabio Condemi, che è un laboratorio, come sempre lui fa, che avrà una resa pubblica sabato 6 alle 19, e già dal suo titolo Horror Store indica in tutta probabilità quelle che saranno le scelte, le riflessioni, i ragionamenti che faremo per il nuovo triennio, così come, lo avrai capito, lo fa Uccelli della Dumouriez, perché sicuramente Uccelli si iscrive in un contesto che ha qualcosa di distopico, questa parola ormai non più amata, ma che appunto mette un dito nell'orrore nel senso proprio alto della parola. È in qualche modo un racconto noir di suspense, dove qualcuno chiuso dentro aspetta che qualcosa fuori, in questo caso gli uccelli che hanno un piano, che si uniscono come in una forma multispecie senza che se ne capiscano mai le ragioni, appunto costruiscono e attuano un attacco all'uomo. E Fabio dall'altra parte, appunto, con il suo Horror Store comincerà a lavorare, a maneggiare scritture dell'orrore, proprio perché ci stiamo anche chiedendo in questo ponte fra una fantascienza che arriva al XXI secolo e certe nature molto più realistiche che proprio questa fantascienza ha, quanto possono cominciare a dialogare con la letteratura d'orrore, che ci interessa molto perché è un'altra forma di indagine sulle comunità degli uomini. Stephen King, uno per tutti, ce l'ha insegnato. Diamo tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? www.lacasadargilla.com, il nostro Facebook, poi c'è il sito del Teatro di Roma, i vari Instagram e il sito del Comune di Roma. Un'ultima curiosità rispetto agli spazi e agli orari. Rispetto agli spazi è una domanda buona, perché quest'anno noi veramente in qualche modo movimentiamo ulteriormente IF, che avverranno all'interno di Teatro India, gli spettacoli negli spazi interni, i laboratori sparpagliatamente negli altri spazi di India, poi ci sarà la grande installazione multimediale sulla facciata di India stesso che accompagnerà gli spettatori dentro, fuori ci sarà la libreria, c'è il bar. Prima parte l'installazione al calar della sera, quindi diciamo verso le 9, e subito dopo cominciano gli spettacoli, quindi diciamo 9:15, tranne la domenica, ultimo giorno, il 7, che c'è un'inversione. Comincia prima lo spettacolo alle 8:15 e ci sarà l'installazione dopo, che chiuderà in bellezza questa nostra settimana. E dalle 4 alle 6 ogni giorno c'è Radio India, e l'altra novità di quest'anno è che Radio India avrà 4 live, ovvero verranno messi in scena e mandati via radio 2 racconti di Ballard e 2 racconti di Bradbury live, a cui una parte di pubblico molto limitata potrà assistere. Quindi c'è sia il live live che la radio insieme. Il 6 aprirà al pubblico gratuitamente il laboratorio di Condemi Horror Store, quindi c'è un'apertura al pubblico performativa alle 19, il 6 gratuita, e anche la conferenza invece sarà il 4 alle 18 e anche quella libero ingresso gratuito. IF Invasioni dal futuro, New Era, a Roma, Teatro India, dal 1 al 7 agosto 2022, un saluto e un ringraziamento alla compagnia La Casa d'Argilla. A presto! Ciao a tutti! Ciao! Ciao ciao! Ciao. Ciao. Con Alessia Esposito di 369 gradi per presentare la rassegna Mi illumino di teatro a Garbatella. A Roma all'829 in via De Marignolli 10 dal 1 al 7 agosto 2022. Ben trovata! Buongiorno, ben trovato! Che cos'è questa rassegna? È una piccola rassegna di 7 giorni all'interno di un lotto popolare della Garbatella, il lotto 29, che ha un bellissimo cortile che si presta da palcoscenico naturale. Quindi per l'estate romana abbiamo pensato di organizzare una serie di spettacoli dal vivo a basso impatto ambientale, quindi con pochissimi allestimenti tecnici, all'interno del lotto, proprio per offrire ad agosto, quindi quando la città un pochino si desertifica dalle varie attività, un'alternativa per trascorrere delle serate in compagnia, ecco, dei momenti di socialità dove il filo conduttore sia il teatro. Quanti sono gli spettacoli presentati e com'è stata la scelta artistica? Gli spettacoli sono 7, appunto dall'1 al 7 agosto. C'è un po' di tutto, musica, teatro e spettacoli per bambini. La scelta che ha guidato un po' la curatela è stata proprio quella di offrire a un pubblico di tutti i tipi degli spettacoli che fossero facilmente accessibili, sia rispetto ai contenuti che rispetto alle modalità di messa in scena, quindi degli spettacoli che non abbiano delle particolarità tecniche per cui non fosse possibile inserirli all'interno del lotto e che fossero user friendly, insomma che non ci fosse una barriera, diciamo, concettuale alla visione. Quindi sono degli spettacoli appetibili un po' per tutti i gusti. Si parte dalla compagnia Bartolini Baronio che fa un red reading piatti forti, quindi ispirato alla letteratura che parla di cucina, e agli spettacoli per bambini delle Unterwasser con un'installazione di scatole magiche, è uno spettacolo per più piccoli che si chiama Non so, non sa, ha un omaggio all'Ulisse di James Joyce che quest'anno compie 100 anni, fatto da Cristina Donadio, Raffaele Di Florio e Maurizio Capone, che sono tre artisti napoletani. Cristina Donadio è la famosa Chanel di Gomorra, passando per un concerto acustico di Leo Pari, che è un cantautore pop, tra l'altro proprio di Garbatella, arrivando quindi a Come tutte le ragazze libere, con la regia di Paola Rota, che parla di storie di donne, fino al Radio Ghetto. C'è uno spettacolo in cuffia un po' particolare con Francesca Falcomeni come unica attrice e che racconta di questa radio nata all'interno di un ghetto di migranti che raccolgono pomodori in Puglia, se non sbaglio. Ecco, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Come avete pensato di mettere gli eventi, gli spettacoli in relazione agli spazi? Come ti dicevo, cerchiamo di avere un basso impatto ambientale, quindi l'inizio di quasi tutti gli spettacoli è previsto tra le 7 e le 7 e mezzo, quindi con luce naturale. Ci sarà ovviamente la fonica ove richiesto e non ci sono allestimenti, quindi scenografie se non quella dell'otto. Quindi la fruibilità è massima, nel senso che poi l'accesso è libero, quindi non c'è sbigliettamento, e chiederemo ai partecipanti, agli spettatori, di portarsi un cuscino, una sedia da casa, perché il lotto verrà fruito come se fosse una grande area da picnic, dove anziché mangiare, non so, panini, si vedrà del teatro. Sono diversi gli spazi nel complesso del lotto? No, è un unico lotto, quindi c'è questo grandissimo cortile e si svolgerà tutto là. Quindi siamo andati anche a conoscere gli abitanti dell'otto qualche settimana fa, ci siamo anche ripassati più di una volta proprio per entrare in sintonia con loro e ci sono tra l'altro detti anche molto contenti che l'otto fosse animato in qualche modo. Ci Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? www.369gradi.it e sulle nostre pagine social, quindi la pagina Facebook e Instagram di 369 gradi e ovviamente sul sito del Comune di Roma dell'Estate Romana, Culture Roma mi pare che si chiami, se non sbaglio, sì. La rassegna Mi illumino di teatro a Garbatella, a Roma all'829 in via De Maringolli 10, dal 1 al 7 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alessia Esposito di 369 gradi. A presto! Grazie a te Federico, ciao! Con Alessandro Businaro, direttore artistico del Festival Teatro in Quota, a Rocca di Mezzo dal 2 al 9 agosto 2022, ben trovato. Grazie mille, ciao Federico, grazie per l'accoglienza. Ce lo presenti? Il Festival Teatro in Quota è un festival che nasce nel 2017, quindi è un festival che si trova alla sesta edizione e che è un festival che è nato dalla volontà di un gruppo di ragazzi del territorio guidati da Dario Delfante, l'attuale direttore esecutivo del festival, e che pian pianino si è evoluto edizione dopo edizione e si terrà dal 2 al 9 agosto a Rocca di Mezzo in provincia dell'Aquila, quindi siamo sospesi proprio in quota ed è un festival multidisciplinare, quindi che accoglie musica, teatro, danza, eventi site specific. Quanti saranno gli eventi presentati? Ci saranno 7 spettacoli e poi ci sarà l'esito di una residenza che ha vinto un bando, un open call che abbiamo aperto appunto di residenza, quindi noi accogliamo un gruppo di artisti, diamo un sostegno produttivo e diamo anche l'opportunità di lavorare a contatto con la comunità. E poi ci saranno 3 laboratori, uno tenuto da me, uno da Fabio Condemi e uno da Silvia Gribaudi. E quello di Silvia Gribaudi ci tengo un po' a spendere 2 parole perché è un laboratorio aperto a tutti, aperto a tutta la cittadinanza ed è un laboratorio, un evento che si concentra sul corpo all'interno dello spazio, sul corpo libero, sulla libertà del proprio corpo ed è un laboratorio di 2 giorni, il 4 e il 5 agosto, aperto a tutti, in centro proprio a Rocca di Mezzo. È anche un evento che per me è molto importante perché rappresenta un po' questo tentativo che stiamo facendo di aprirci completamente alla comunità da una parte e di portare artisti internazionali dall'altra, ecco. Com'è stata la scelta artistica? Si è un po' accodata a quello che è il tema di quest'anno, che sono i punti cardinali, che è il titolo di questa edizione, e quello che ho cercato di fare è di individuare degli artisti giovani e con un'esperienza maggiore che usassero il teatro e le arti performative un po' come bussola, come punto cardinale, sia per una propria ricerca, sia per la ricerca di senso, ecco, da un punto di vista proprio legato alla vita. E quindi gli artisti che abbiamo scelto sono artisti come Frosini Timpano, come Silvia Gribaudi, come Dario Felli, come tutti gli artisti che ospitiamo, che attraverso il loro lavoro cercano di portare avanti un'indagine. Quali saranno gli orari e i luoghi? Rocca di Mezzo è un paese molto piccolo, quindi il festival sarà molto raccolto e si svolgerà più o meno tutto in centro del paese. In particolare la maggior parte degli eventi, che saranno tutte le sere alle 21.30, saranno nella sede del Parco Sirente Velino, che si trova proprio a Villa Cidonio, in centro a Rocca di Mezzo, facilmente raggiungibile a piedi. Quindi una volta raggiunto alle 21 il centro di Rocca di Mezzo sarà facile orientarsi a proposito di punti cardinali nel paese, perché tutti gli eventi saranno tutti ravvicinati. Come si collocheranno in relazione al luogo? Questa è una domanda molto, molto, molto importante per me, perché tutti gli eventi sono nelle piazze, nei parchi, in rifugi, quindi sono tutti eventi che si trovano dentro al luogo. Abbiamo cercato di sviluppare una programmazione come se fosse un liquido, no? Che si inserisce negli spazi della cartina di Rocca di Mezzo. E quello che abbiamo cercato di fare, anche la residenza di cui parlavo prima, è stata vinta da Filippo Lilli e Valentina Sansone, che sono un sound designer e una coreografa danzatrice, che fanno un lavoro con il campanile e la campana di Rocca di Mezzo. Quindi lavoreranno, agiranno proprio sul campanile di Rocca di Mezzo e sulla campana di Rocca di Mezzo. Questo per dare un indirizzo, anche una direzione effettivamente a quello che è il festival, cioè un festival che cerca più possibile di inserirsi e anche di abbracciare la geografia oltre che la comunità del luogo dove ci stiamo inserendo, che è un luogo straordinario, non lo dico solo per fare pubblicità, ma è veramente un luogo da un punto di vista paesaggistico veramente straordinario, che è quello dell'altopiano delle Rocche. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?

www.teatroinquota.com, quindi molto semplice, e poi ci potete trovare su Facebook e su Instagram, Teatro in Quota, e lì troverete tutto, calendario con tutti i dettagli, contatti, per qualsiasi cosa non esitate a contattarci, noi siamo a disposizione H24. Questa edizione del Festival Multidisciplinare Teatro in Quota, i punti cardinali, a Rocca di Mezzo dal 2 al 9 agosto 2022, un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Businaro. A presto! A presto, grazie! Con Silvia Alunni, direttrice artistica della Voce della Terra, in quattro comuni della Valnerina dal 30 luglio al 6 agosto 2022, ben trovata. Grazie, ciao Federico, salve a tutti. Raccontiamo cos'è. Beh, la Voce della Terra, c'è un po' di ispirazione nel nome. Parliamo dell'organizzazione di una manifestazione che è arrivata alla sua quarta edizione ed è stata costruita nei luoghi che sono stati purtroppo nel 2016 colpiti dal terremoto in Umbria. Quindi la Voce della Terra, la ricostruzione e la ripresa forte e la rinascita di questi territori meravigliosi, unici e suggestivi in uno dei punti più belli dell'Umbria, che è la Valnerina. Quindi inizieremo a Scheggino il 30 luglio e poi ritorneremo a Santa Anatolia di Narco, che sta vicino a Scheggino, il 6 agosto, passando per San Pietro in Valle, che è un luogo, uno tra i più magici di questo percorso, che è San Pietro in Valle a Ferentillo, e poi passeremo il 3 agosto a Spoleto, allo Spazio Collicola. Quindi queste quattro location, una più bella di un'altra, Federico. È una commistione tra turismo e musica. Sì, è una commissione tra turismo e musica, perché organizzeremo quattro appuntamenti musicali. Partiremo il 30 luglio a Scheggino, tutti alle ore 21, con il trio di Servillo, Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, con un progetto dedicato al grandissimo Lucio Dalla, quindi l'anno che verrà. Questo progetto a Scheggino, a Piazza Carlo Urbani, alle ore 21, il 30 luglio. Proseguiremo il 1 agosto a San Pietro in Valle alle ore 21 con un grande, uno dei riferimenti della musica flamenca spagnolo, parliamo del pianista Dorantes. Avremo Dorantes piano solo a San Pietro in Valle alle ore 21. Altro concerto da non perdere. Proseguiremo poi il 3 agosto allo Spazio Collicola a Spoleto. Questo è l'unico appuntamento a pagamento, a soli euro 13. Quindi avremo il Quinto Rigo con Gino Castaldo, un omaggio ai 100 anni della nascita di Charles Mingus, quindi un mito del jazz mondiale. Quindi un omaggio a Charles Mingus al Palazzo Collicola a Spoleto alle ore 21, 3 agosto. Finiremo poi a Santa Anatolia di Narco, un paesino, un comune vicino a Scheggino, in cui ospiteremo alle ore 21 alla Piazzetta del Colle una chicca, vera e propria chicca, una violoncellista e cantante cubana, Ana Carla Maza, una vera delizia. Oltre alla parte musicale, ecco, quindi, che ho appena descritto, ci saranno delle visite guidate, gratuite, che in ognuna di queste quattro giornate porteranno chi si iscriverà, e qui è a numero chiuso, quindi fino a 25 persone, porteranno nelle quattro giornate le persone che si iscriveranno, ad esempio il 30 luglio all'Abbazia San Felice Mauro e a Scheggino, quindi la visita in questi luoghi, il 1 agosto a San Pietro in Valle e a Ferentillo, il 3 agosto a Spoleto e il 6 agosto a Vallo di Nera e a Santa Anatolia di Narco. Le visite saranno fatte con una guida specializzata certificata dalla Regione Umbria. Ecco per quale motivo parliamo di una promozione non solo musicale, culturale, ma anche turistica. Quindi una promozione proprio della bellezza di questi territori. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? visioninmusica.com, che è il sito di Vision in Musica, dentro tutte le info sulla Voce della Terra 2022, tutti gli appuntamenti musicali e le visite guidate. E invece sui nostri social, Vision in Musica, su Facebook o su Instagram. Quarta edizione della rassegna La Voce della Terra in quattro comuni della Valnerina dal 30 luglio al 6 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Silvia Lunni. A presto! Grazie, grazie a tutti. Vi aspetto in Valnerina. Con Simonetta Grechi, curatrice del Clorofilla Film Festival e Tramonti nell'Uliveto, alle Nauli di Rispescia dal 3 al 7 agosto 2022, ben trovata. Grazie, grazie. Clorofilla Film Festival, 21esima edizione, un festival diffuso per luoghi e tempo, nel senso è un festival che parte dalla primavera e arriva all'autunno in diverse parti d'Italia. Raccontaci un po'. Sì, siamo partiti a giugno con le proiezioni al Museo di Storia Naturale di Grosseto, poi abbiamo proseguito in altre località e chiuderemo presumibilmente a novembre, perché siamo un po' work in progress. A settembre andremo a Porto Cesareo per il festival e poi alla Festa del Cinema di Mare a fine agosto. Insomma, ci divertiamo a portare in giro un po' di clorofilla. E poi ovviamente la parte centrale è a Festambiente, che sarà appunto dal 3 al 7 agosto nel Parco della Maremma. Tramonti nell'Uliveto, come si caratterizza quest'anno? Avremo un mix di libri, teatro e musica. Iniziamo con la musica il 3 agosto con il nuovo concerto del Conciorto che avevamo ospitato qualche anno fa, un concerto dedicato al suolo con Gianluigi Carlone della Banda Osiris e Biagio Basini, che è uno scrittore di libri per bambini. Poi avremo Daniele Parisi il 4 con il suo spettacolo La vita è una beffa. Il 5 agosto invece Massimo Reale, l'attore noto per interpretare Fumagalli nella serie Rocco Schiavone, ma e non solo, perché ne fa veramente tante, è anche sceneggiatore, e anche lui sarà presente con un monologo dal titolo L'uomo sottile. Poi il 6 è uno spettacolo in collaborazione con Ricrea sui rifiuti con Roberto Cavallo e la quadriglia Folk Band, mentre la chiusura è affidata ad un poeta, a Andrew Faber, che chiuderà questo ciclo di tramonti con una dedica speciale ad un nostro amico Luigi Ambrosio, perché appunto l'ultima volta che Andrew Faber è stato a Grosseto è stato in occasione di un'iniziativa al Caffè Ricasoli e quindi abbiamo deciso di chiudere con lui per questo motivo. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? È sul sito di Festambiente, che è www.festambiente.it. Quest'anno per la prima volta abbiamo avuto un contributo del Ministero della Cultura, l'abbiamo saputo pochi giorni fa, quindi questo è un aspetto importante anche per la sopravvivenza del festival, e da Biterbanca, quindi insomma siamo contenti anche di poter realizzare magari qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo organizzato negli anni passati e con una maggiore tranquillità. Ventunesima edizione del Clorofilla Film Festival e Tramonti nell'Uliveto alle Nauli di Rispescia dal 3 al 7 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Ci vediamo lì. Ci vediamo qui. Grazie. Con Maurizio Sguotti per presentare la 13esima edizione di Terreni Creativi Festival ad Albenga dal 1 al 7 agosto 2022, ben trovato. Buongiorno, ben trovato. Ce ne parli? Il Festival Terreni Creativi è un festival multidisciplinare che si occupa quindi delle arti performative legate al contemporaneo, teatro, danza, musica, quest'anno anche presentazione di libri. Si svolge ad Albenga, sia nel centro della città, ma il grosso della serata del festival viene programmato in alcune aziende agricole locali, quindi i luoghi di produzione agricola diventano luoghi di spettacolo. Appunto, quest'anno abbiamo 16 spettacoli differenti tra danza e teatro, e tutte le sere a conclusione della serata c'è la musica, un DJ set, e l'ultima serata, il set, che è vista come una festa di chiusura, c'è la presentazione di un progetto discografico importante, Liguria Transatlantica, le influenze della bossa nova sulla musica ligure. Come aveva avuto origine tutto e poi come si è sviluppato negli anni? Ha avuto origine perché 13 anni fa abbiamo incontrato questi imprenditori agricoli che avevano voglia di fare qualcosa per il territorio. Ci siamo uniti, abbiamo trovato l'interesse a portare la cultura in luoghi non teatrali legati proprio alla produzione, a quello che è la grande produzione di Albenga. Albenga è esportatore di piante aromatiche a livello europeo, e quindi da lì piano piano nel tempo il festival si è consolidato aumentando le serate. Quest'anno arriviamo a una settimana ed è stato questo incontro che ha dato il via a tutto. Gli spettacoli come sono in relazione ai luoghi? Gli spettacoli, essendo allestiti all'interno di questi spazi industriali, di questi capannoni, ovviamente ne subiscono anche l'influenza, ma la cosa bella è proprio questa scommessa di portare in questi spazi, e quindi anche l'artista è disposto a mettere in discussione il proprio progetto per portarlo in un luogo che non è un teatro. Però diciamo che la sfida in questi anni è sempre stata vinta, e c'è anche la voglia da parte degli artisti di accettarla, questa sfida. La scelta artistica com'è stata? È sempre legata a quegli artisti e a quelle compagnie che hanno poca visibilità o non ne hanno abbastanza, quindi abbiamo sempre privilegiato il discorso di far emergere qualcosa che ha poco spazio. La cosa interessante di questi ultimi anni è che proponiamo delle personali, quindi gli artisti hanno modo di fare vedere più lavori. Quest'anno le personali saranno 4, e sono una di Giuseppe Cutino, regista, una del Teatro dei Borgia, una di Bartolini e Baronio e una della danzatrice Francesca Foscarini. Oltre a questo, quest'anno abbiamo anche 2 laboratori di scrittura creativa, uno tenuto da Francesca Sartianesi e l'altro da I Maniaci d'Amore. Sulla presentazione dei libri c'è un progetto di Graziano Graziani, Corpi espansi e corpi in mutazione, che incontra 3 autori che sono Livio Sferracchiati, Orso Tosco e Alberto Ravasio, e l'ultimo giorno, il 6, c'è Oliviero Ponte di Pino e Giulia Alonso che presentano un libro in giro per festival che parla dei festival italiani. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il sito www.terrenicreativi.it. Tra l'altro quest'anno noi abbiamo avuto una piccola grande problema, cioè non siamo rientrati nel FUS, quindi non riceveremo i fondi FUS, e stiamo facendo crowdfunding, quindi per chi fosse interessato ad aiutarci sul sito trova gli estremi per poter partecipare alla raccolta fondi. 13ª edizione di Terreni Creativi Festival ad Albenga dal 1 al 7 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Maurizio Sguotti. A presto! Grazie, a presto! con Pino Strabioli per presentare la 28esima edizione del Festival I Solisti del Teatro a Roma, Giardini della Filarmonica Romana, dal 6 luglio al 4 settembre 2022. Ben trovato. Federico, ben trovato a te e ben trovati ai radioascoltatori e grazie per l'invito, sono qui un po' a rappresentare i solisti del teatro, insomma, e a onorare Carmen Pignataro, che è la direttrice artistica che da 28 edizioni porta avanti questo festival prestigioso in uno dei giardini più belli della capitale. Cosa rappresenta, per chi non lo conoscesse, raccontiamolo un po'. Rappresenta un appuntamento appunto storico dell'estate romana, le mitiche estati romane che stanno in qualche maniera rifiorendo, non sono mai scomparse ma hanno avuto dei momenti di down. Beh, è un luogo bellissimo perché è all'interno dei giardini della Filarmonica, su via Flaminia, nel centro storico, per cui è un luogo fresco, ci sono gli alberi, c'è una magia proprio d'impatto. Infatti tutte le volte che io ho fatto gli spettacoli lì non ho mai usato scenografia. E tanto è bello il luogo che ti ospita, per cui bastano delle luci puntate su questi alberi e è un piacere. Poi dopo la pandemia, insomma, ancora di più lo stiamo vedendo, io sto in giro con altri spettacoli per l'Italia, c'è ancora di più da parte del pubblico questa voglia di rincontrarsi, di sedersi insieme e di assistere a un evento creativo. E i giardini della Filarmonica ti permettono questo, di immergerti in una bolla verde di notte con un'atmosfera davvero, davvero incredibile. Com'è nato il tuo rapporto con questa rassegna e come ti è sviluppato nel corso del tempo? Ma il rapporto con questa rassegna è nato proprio con Carmen Pignataro, che cura la direzione artistica, che è la padrona di casa. Me la conosco da tanti, tanti, tanti anni, abbiamo avuto una grande amica in comune, che lei ha seguito anche professionalmente, Viera degli Esposti, che purtroppo non c'è più, e su quel palcoscenico qualche stagione fa presentiamo proprio uno spettacolo che si chiamava Wiki Piera, dove Piera si raccontava a me. Quindi è nato lì, poi questo spettacolo ha fatto il giro d'Italia. Ecco, la specialità di questo luogo è anche che può diventare una palestra per sperimentare uno spettacolo che poi può avere una vita propria. Per cui con Carmen ci conosciamo da anni e citando Piera, proprio l'11 luglio all'interno della rassegna sarà una serata dedicata a lei, a questa immensa attrice, non solo attrice, scrittrice. Avrò l'onore di stare con Dacia Maraini, Lucia Mascino e verranno proiettate delle cose su Piera e noi racconteremo un po', per quanto ci sarà possibile, l'immensità di questa signora. Facciamo un po' una panoramica di quello che succederà? Il 6 apre Francesca Reggiani, è intelligente, è sensibile, è comica, è tante cose messe insieme. E proprio la caratteristica di questo festival dei solisti del teatro è quello di passare anche per vari generi, per cui non mancherà un omaggio a Pierpaolo Pasolini, Lorenzo Balducci farà il suo spettacolo, ci sarà un omaggio a un altro grande autore napoletano, purtroppo scomparso prematuramente, Annibale Ruccello, e io sarò presente anche con La Voce Fuori Campo, con un spettacolo, un esercizio che avevo fatto all'Off Theater qui a Via Giulia con Santino Fiorillo, La Posta del Cuore, un testo scritto da Silvano Spada, per cui lo riproporremo per il pubblico estivo. E poi il 4 settembre, proprio la data di chiusura, curerò una lettura di un testo bellissimo di Alberto Bassetti, Sorelle, con Laura Lattuada e Sara Biacchi. Poi è infinito il cartellone, appunto, se pensiamo che dal 6 luglio al 4 settembre accompagnerà i romani e non solo in questa cavalcata, per cui ci sarà la musica, sono tantissimi, comunque c'è il sito e lì si trovano tutte le informazioni. Quanti saranno nel complesso gli appuntamenti? Una cinquantina, per questo io ho citato così in maniera random un po' di nomi per non sacrificarne alcuni, perché sennò dovremmo fare 50 titoli e poi in scena non sono soltanto dei monologhi, c'è anche musica, ci sono brevi rassegne, per cui sì, 50 serate ai Giardini della Filarmonica per i solisti del teatro. 28esima edizione del Festival I Solisti del Teatro a Roma, Giardini della Filarmonica Romana, dal 6 luglio al 4 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Pino Strabioli. A presto! E io ringrazio voi, grazie per questo spazio, grazie alla radio e grazie al teatro e grazie a chi verrà a trovarci. Grazie Federico. con Andrea Giuseppini, uno dei curatori del sito internet campifascisti.it. Ben trovato. Salve, ben trovati a voi. Descriviamo questo lavoro. Il sito Campi Fascisti nasce diversi anni fa con l'intenzione di fare una sorta di mappatura, si direbbe oggi, dei luoghi di violenza fascista, quindi non soltanto dei campi di concentramento, ma anche di tutto quello che potrebbe rientrare sotto il nome di un sistema concentrazionario, un sistema coercitivo fascista. Era in realtà nato solo per fare i campi, poi ci siamo accorti, documentandoci, studiando un po' il tema, che sarebbe stato un po' troppo limitato per marcia i campi, perché appunto proprio per questa sorta di sistema, nel senso che c'erano diverse forme di repressione alle quali erano dedicati diversi luoghi, per cui stiamo parlando delle località di internamento, ma soprattutto delle carceri, soprattutto per quanto riguarda gli stranieri, quindi dopo l'entrata in guerra dell'Italia, uno dei luoghi poco studiati, però secondo noi molto importante, a cui noi stiamo dedicando in particolare le nostre energie in quest'ultimo periodo. C'è stato anche un supporto europeo. Inizialmente sì, il progetto è potuto partire solo grazie a un bando europeo, questo è successo tanti anni fa e devo dire ahimè che purtroppo dopo, nonostante i nostri tentativi di partecipare ad altri bandi e chiedere altri finanziamenti, non ne abbiamo più ottenuti, e questo è un peccato perché ovviamente è un lavoro, come potete immaginare, molto lungo e in continuo divenire, per cui in realtà servirebbero ancora tante ricerche archivistiche e soprattutto tanto lavoro di inserimento, perché il sito è soprattutto anche una fonte di documenti. Per ogni luogo che noi riusciamo a mappare, oltre a suddividerlo nelle diverse tipologie, appunto carcere, la località di internamento, la località di confino, eccetera, per ognuno di questi luoghi noi pubblichiamo anche i documenti che riusciamo a trovare negli archivi, che sono in realtà non solo italiani, abbiamo anche consultato archivi in ex Jugoslavia, in Germania, per cui c'è un grande database di documenti, abbiamo un elenco con 4.239 documenti in questo momento, ogni documento è esattamente collocato con la sua descrizione archivistica ed è in copia, in digitale, copia fotografata da noi. Quanti erano i campi nel paese e fuori dal paese? Cifre io preferisco quasi mai non farle, nel senso che per me non ha molto senso, uno perché appunto questo è un lavoro in progress, come si dice, la cifra ancora definitiva non c'è, sembra un giorno ci sarà. Con l'informatica uno riesce a fare molte cose utili, ad esempio noi abbiamo delle mappe divise per paese sia per tipologia di luogo, uno può nelle mappe, siamo nell'asse ad esempio, vedere tutti i campi di concentramento che c'erano nella regione Lazio. Per il Lazio, dunque, noi in tutto abbiamo mappato 109 luoghi diversi. E di questi i campi di concentramento sono 6, poi abbiamo i campi per i prigionieri di guerra, sono 8. Legati ai campi per i prigionieri di guerra c'erano altri luoghi che erano molto interessanti, che erano i campi di lavoro per i prigionieri di guerra, e noi ne abbiamo mappati 3. Più numerosi ovviamente sono le località di internamento, c'erano piccoli comuni di tutta Italia, in questo caso dove gli internati erano mandati a una sorta di confino, quindi con l'obbligo di risiedere, l'obbligo di firma, è un vero e proprio confine, in questo caso quella chiamata località di internamento. Al momento, se vogliamo guardare solo i campi di concentramento, per l'Italia noi abbiamo mappato 60 luoghi, e invece per tutti i luoghi di internamento sono 132 luoghi diversi. Ripeto, questa è una mappatura ancora provvisoria. In particolare diciamo che mentre per l'Italia molto lavoro era già stato fatto prima della nostra mappatura, e penso in particolare a un libro importante come quello di Carlo Spartaco Capogreco, I campi del Duce, sui paesi occupati dall'Italia invece resta ancora molto da fare. Penso in particolare ai paesi occupati in Nord Africa, nel Corno d'Africa, ma anche a paesi come l'Albania. C'è ancora molta ricerca da fare. E per approssimazione sappiamo quante persone sono passate per questi campi e quante sono state le vittime? Ci sono soltanto delle stime che però non vengono da noi, anche se noi in realtà abbiamo iniziato a fare una sorta di database degli internati, che sarebbe di fatto l'unico modo in cui uno può provare a dare delle cifre corrette. In realtà questo lavoro è un lavoro immenso che noi da soli senza finanziamenti non riusciremo mai a fare, quindi riusciamo a farlo per piccoli e singoli luoghi. Abbiamo fatto un database ad esempio degli internati di Losarchi nel carcere di Volterra, prendendo le cifre, quelle che normalmente vengono riportate, che ad esempio il paese ha avuto più internati, che sono i paesi della ex Jugoslavia, quindi Slovenia, Croazia, Montenegro, si parla di circa 100.000 internati. Le cifre sulle persone decedute, quindi ancora non ci sono le cifre. Noi adesso in questo periodo, oltre alle carceri, stiamo lavorando in particolare su un campo di concentramento che per numero di internati e per numero di persone che vi sono morte è quello peggiore. Stiamo parlando del campo di concentramento di Arbe, detto in italiano, mentre in croato la località è Rab, un'isola oggi in Croazia. Su questo campo, di cui si conosce già abbastanza, noi abbiamo un progetto, stiamo facendo un sito dedicato esclusivamente a questo luogo. A settembre faremo un viaggio della memoria, della storia, forse come ci piace più dire a noi, in questo luogo. Questo luogo venne aperto nel luglio del 42, restò in funzione fino all'8 settembre del 43, dopo la capitolazione dell'Italia. Vi passarono circa 10.000 internati e vi morirono almeno 1.200 persone. Quando dico internati intendo nella maggior parte persone anziane, donne e bambini che venivano internati in quanto parenti di partigiani, quindi per cercare di contrastare la resistenza jugoslava al fascismo, quello che faceva era arrestare i parenti di chi andava nei boschi, come dicevano loro, e metterli nei campi di concentramento. Ad Arbe c'è stata una vera e propria strage, perché in poco più di un anno su 10.000 persone ne siano morte 1.200, è una cifra anche in percentuale spaventosa. I campi di concentramento italiani, nessuno di questi era un campo di sterminio, quindi non si può paragonare Rab a nessun campo di sterminio, perché il suo scopo non era quello di sterminare la popolazione internata, ma appunto era quello di tagliare le gambe alla resistenza. E perché muoiono così tante persone? Perché vengono fatte morire di fame, perché vivono in condizioni igieniche terribili, per quasi tutto il periodo alcune persone vivono sempre sotto le tende, con gli allagamenti, e soprattutto per denutrizione. Ci sono questi documenti che si possono tutti trovare sul nostro sito, in cui la causa principale di morte è quella che viene chiamata cachessia, che è la morte per il denutrimento, cioè uno stato in cui anche se un medico può intervenire non riuscirà mai a recuperare questa persona. Questo è responsabilità dei militari italiani. Questo era un campo gestito dall'esercito, non era un campo gestito dal Ministero dell'Interno. Il comandante del campo era un tenente colonnello dei carabinieri, tal Vincenzo Cuiuli, anche semplicemente perché rubava il poco cibo destinato agli internati, lo facevano i militari, rivendevano poi al mercato nero questo cibo e intanto le persone morivano. Su questo campo riusciremo a fare il database dei nomi degli internati e delle persone che lì sono morte, appunto con questo sito specifico, comunque legato ai campi fascisti, comunque avrà una sua specificità rispetto a questo luogo, che è sicuramente il luogo peggiore di tutti tra i campi di concentramento italiani della Seconda Guerra Mondiale. È un lavoro in corso, siete aperti anche a contributi esterni? Sì, sì, assolutamente, è un lavoro in corso. I contributi esterni ci arrivano, perché una delle cose più apprezzate del nostro sito è appunto il fatto che noi pubblichiamo documenti che per le persone magari sarebbe complicato andare all'archivio centrale, quindi ci sono molti storici locali, appassionati di storia locale, che usano questi documenti per approfondire il tema. Questa è una delle cose di cui noi siamo più contenti, cioè che questo sia uno stimolo a ulteriori ricerche e ad ampliare appunto questa mappatura. Ci tengo a precisare che io in particolare, che curo questo sito, non sono uno storico, sono un appassionato di storia. Anche questo è stato detto e ripetuto più volte, cioè che la ricerca sui luoghi di internamento fascisti non ha mai interessato molto l'accademia storica, che invece ha preferito dedicarsi ad altri temi. Lo stesso Capogreco, appunto, che è l'autore di questo testo importante sui campi di concentramento, non era uno storico, poi l'ho diventato ad onore, diciamo così, dopo aver fatto questo libro. Qui sì, io vorrei può denunciare, comunque non dico il disinteresse, perché ormai in questi ultimi anni un po' l'atteggiamento anche degli storici sta cambiando, per cui c'è sicuramente maggiore interesse, però diciamo che continua ad essere una materia, andrebbe studiata meglio per quel po' di tempo che ancora ci rimane, prima che queste cose diventino troppo lontane nel tempo e quindi tendenzialmente essere dimenticate. Sono cose importanti perché parlano di guerre, parlano di occupazioni, parlano di nazionalità, tutti i temi che non passano, come ben sappiamo. E io non so quanto si possa imparare dalla storia, sicuramente si può conoscere dei meccanismi, cercare di capire, cercare di evitare di ripetere degli errori. Più che la memoria, lo studio, noi diciamo